La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, ciao a tutti, buongiorno e benvenuti. Questo è il podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, c'è Simone Spezia. Vi raccomando ancora una volta di mandarci un feedback, come si dice in inglese. Dateci un'idea di quello che pensate di questo podcast, di quello che pensate della trasmissione. Effetto giorno @radio24.it, mi potete scrivere là, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e naturalmente il mio account Twitter. Grazie come sempre per aver scaricato anche questa puntata e mi raccomando, iscrivetevi tramite il vostro browser o il vostro smartphone per avere l'aggiornamento automatico nel momento nel quale arriva il podcast. Di che cosa parleremo oggi? Beh, come sempre, di tutte le notizie. Cercheremo di ricomporre un po' questa giornata, cercheremo anche di raccontarvi delle storie. Una di queste, quella che ci ha incuriosito di più e che secondo me è interessante risentire, è quella di questo quadro di Leonardo, questa Isabella d'Este, ritrovato in un caveau in Svizzera dopo un tentativo di ritrovamento già fallito nei mesi scorsi. Una storia interessante, ce l'ha raccontata direttamente un colonnello della Guardia di Finanza. Però andiamo con ordine e naturalmente a dominare la giornata ci sono le notizie che arrivano ancora una volta dall'Ucraina, dove sul campo si racconta di nuove esplosioni nell'est del paese. Forse le milizie filorusse hanno colpito, sicuramente è stata colpita una struttura militare e anche un edificio civile. Le vittime nel momento nel quale stiamo registrando questo podcast sono 6. Abbiamo fatto un punto sulla situazione e anche sull'avanzata non solo dei filorussi, ma anche dell'esercito regolare, dell'esercito di Kiev, oltre che sulle trattative che stanno andando avanti dal punto di vista diplomatico. Come sapete, Angela Merkel e François Hollande sono volati negli Stati Uniti. Oggi Mosca ha replicato al presidente americano Obama, che ha parlato della possibilità dell'invio di armi a Kiev. Dunque, il punto appunto con Gigi Donelli. Sul fronte dei combattimenti oggi c'è una novità che riguarda il battaglione Azov. Il battaglione è stato spesso citato battaglione ultranazionalista, neonazista definito anche in passato. 7-8 mesi fa era una struttura di circa 300 persone, ora sono 3.000 volontari. La novità è che il battaglione Azov sta avanzando sul cosiddetto fronte di Mariupol, quindi sul Mar Nero, e questo mentre continua la battaglia su Debalt. Ricordo che il fronte ormai è lungo 300 chilometri, Lugansk a nord, Donetsk al centro, Mariupol a sud, e mentre appunto i filorussi starebbero completando la presa di controllo della parte centrale del fronte, viene lanciata questa che appare anche un tentativo di alleggerire proprio la pressione sul fronte. Di certo quello che si può dire dalle notizie che arrivano dalla regione è che l'auspicato cessate il fuoco in vista dell'incontro di domani, sempre che ci sia, perché naturalmente sono, come dire, cose molto complesse, dicevo, il cessato il fuoco di sicuro non c'è. Ecco, questa la situazione sul terreno. Brevemente, Gigi, le posizioni americana e russa. Ieri Barack Obama ha detto: se non si raggiunge un accordo siamo disposti ad inviare le armi a Kiev. Mosca ha risposto: in questo caso ci sarebbe un'escalation del conflitto. La realtà è che sembra che gli americani non abbiano grandi intenzioni di inviare le armi all'Ucraina. Ma sicuramente gli americani ne farebbero a meno, tenendo conto però che all'interno del governo americano esiste una fortissima pressione da parte di una lobby, non dimentichiamolo, possiamo definirlo la lobby polacca, la lobby dei paesi baltici, non a caso Chicago viene definita la principale città della Polonia negli Stati Uniti, perché insomma c'è una visione anche molto orientale di questa crisi. Una parziale buona notizia potrebbe essere la scelta dell'inviato di Putin a questo incontro. Si tratta di Grigori Borisovich Karasin, che è un diplomatico con una lunga esperienza, ha lavorato a lungo in Francia e nel Regno Unito. Insomma, almeno nell'indicazione della persona che sta trattando in queste ore, non sembra esserci una preclusione ostile. Eccoci alla cronaca. La cronaca ci porta a raccontare due storie dalla Svizzera. La prima riguarda il ritrovamento appunto di questo quadro che si suppone essere di Leonardo da Vinci. Come sentirete tra un attimo, a quanto pare la Guardia di Finanza e la Procura hanno grande sicurezza sul fatto che si tratti di un capolavoro del maestro, un capolavoro che stava per essere venduto a 120 milioni di euro. È interessante tutta la storia di come si è arrivati a trovare questo quadro, a scoprire questo quadro, e di come un primo tentativo di recuperarlo sia andato a vuoto. Il racconto è tutto nelle parole, nell'intervista che abbiamo realizzato col colonnello Antonino Raimondo, che è a capo della Guardia di Finanza di Pesaro. Sentiamo. Vi sono delle perizie che sono state acquisite con evidenze di carattere giudiziario e vi sono ulteriori elementi che al momento non sono stati riferiti, perché chiaramente stiamo parlando di un'attività che è attualmente ancora in corso. Teniamo conto che il sequestro del dipinto, perché il dipinto è stato oggetto di un sequestro richiesto dalla Procura di Pesaro al Tribunale di Lugano ed è stato eseguito proprio nella giornata di ieri, quindi sono notizie veramente che stiamo dando in tempo reale. È un sequestro che è avvenuto, come siete arrivati sulle tracce di questo dipinto, colonnello? Beh, abbiamo avuto sostanzialmente due diverse tipologie, un primo filone investigativo che era stato sviluppato inizialmente solamente dal Comando Tutela Carabinieri Patrimonio Culturale, riguardava sostanzialmente l'acquisizione di un mandato a vendere che era stato rinvenuto presso un professionista, un avvocato del Foro di Pesaro, un mandato a vendere per quest'opera d'arte per un valore non inferiore a 95 milioni di euro, precisando all'interno di questa scrittura privata la localizzazione del dipinto, ovvero dove si trova il dipinto, ovvero in un cavo custodito in Svizzera. Questo è stato un primo step, è stata data esecuzione subito dopo una richiesta derogatoriale di assistenza giudiziaria. Purtroppo le evidenze investigative all'epoca portarono nulla di fatto, ovvero l'esecuzione avvenne, ma quando si andò nel cavò che era stato individuato come possibile luogo di deposito non venne trovato alcunché. E questo quando avvenne, colonnello? Interessante questo. Quindi ci fu un primo momento nel quale evidentemente il dipinto era stato spostato, presumibilmente. Esatto. Quando avvenne questo fatto? Questo avviene all'incirca nel periodo da settembre del 2013 in poi. Sì, nel settembre del 2013. Poi cosa è successo? Successivamente, ad agosto del 2014, quindi quasi un anno dopo, nell'ambito invece di parallele e autonome e distinte indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Pesaro su reati fiscali e su truffe in danno a compagnie di assicurazione, emergevano elementi invece che venivano ulteriormente sviluppati e praticamente si intersecavano con l'autonoma e parallela indagine che era stata a suo tempo svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. In sostanza, colonnello, voi stavate indagando su un caso di evasione fiscale e truffa a compagnie assicurative e vi siete imbattuti in un personaggio, immagino, collegato a questa vicenda. Assolutamente sì, stiamo parlando di professionisti, come è facile intuire, i professionisti che avevano legami con due praticamente autonome parallele organizzazioni criminali, o quantomeno organizzazioni. Una dedita a truffe assicurative e reati di tipo fiscale e un'altra invece che aveva pianificato una serie di iniziative finalizzate alla vendita di questo dipinto. E là voi avete ritrovato dei documenti che vi riportavano a questo nuovo cavò, in sostanza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, quindi da questo punto di vista in poi abbiamo iniziato a cooperare in maniera congiunta sempre con la Procura di Pesaro, ma le due forze di polizia in maniera assolutamente sinergica nel rispetto delle diverse competenze giuridiche attribuite all'unità specialistica dei carabinieri, quindi al tutelo patrimonio culturale, e alle competenze di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Lo sviluppo congiunto ha portato pochissimi giorni fa a individuare il luogo dove verosimilmente si poteva ritenere che questo dipinto fosse stato trasportato e custodito, ovvero un ulteriore cavo di un'ulteriore banca privata a Svizzera, sempre a Lugano. Senta, ma qual era la provenienza originaria di questo dipinto, colonnello? Su questo al momento non sono in grado di poter rispondere, non per incapacità di notizie, ma perché sono notizie coperte da segreti istruttori. Mi permetto solamente di aggiungere che dalle prime luci dell'alba di stamane sono in corso decine di perquisizioni in tutta Italia, svolte congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri su questa vicenda. Quindi ci sono anche ordinanze di custodia, colonnello, cioè ci saranno arresti? No, al momento ancora no, l'indagine è di fatto su questo filone appena partita e si è avuta un'accelerazione improvvisa per la quale mi preme l'obbligo di segnalare la grande e straordinaria collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria elvetica e della Polizia Federale svizzera, perché veramente nell'arco di poche ore è stato possibile dare esecuzione in territorio di Lugano, peraltro con l'assistenza di due ufficiali di polizia giudiziaria, uno della Guardia di Finanza e uno dell'Arma dei Carabinieri, è stata data esecuzione a un provvedimento di sequestro veramente nell'arco di poche ore. La ringrazio. Questo veramente la dice lunga sul mutato rapporto di carattere di cooperazione giudiziaria. La seconda storia che vi vogliamo raccontare e che arriva sempre dalla Svizzera è la vicenda che è ritornata agli onori delle cronache in questi giorni ed è quella che riguarda la famosa lista trafugata da Hervé Falciani, trader della banca HSBC a Ginevra, una lista che contiene evasori, potenziali evasori, comunque nomi di persone che avevano conti presso appunto la HSBC. Su questo è stato scritto un libro, lo ha scritto lo stesso Falciani e lo ha scritto con un giornalista del Sole 24 Ore, il nostro Angelo Mincuzzi, un libro edito da Chiare Lettere che uscirà la settimana prossima, il 18 di febbraio. Avete sentito nel corso della trasmissione, nel corso di Effetto Giorno, un passaggio della chiacchierata che abbiamo fatto con Angelo Mincuzzi e qua vi proponiamo la versione completa. Io l'ho frequentato molto in questi ultimi 5 anni, cioè da quando ho cominciato a occuparmi della vicenda della lista Falciani. Devo dire che all'inizio anch'io avevo letto degli articoli sui giornali italiani e stranieri che lo dipingevano come una figura ambigua, quindi diciamo il primo contatto che ho avuto con lui è stato un contatto molto basato un po' sull'incertezza. Anch'io non sapevo se fosse un Robin Hood oppure un avido venditore di dati rubati. Col tempo ho imparato a capire che in realtà è più vicino alla figura di Robin Hood, Hervé Falciani. Hervé Falciani oggi, una sorta di pentito, per così dire. Sì, usare la parola pentito forse non è corretto, perché in realtà lui non ha commesso, lui ha denunciato dei comportamenti illeciti, un sistema illecito di cui è venuto a conoscenza, che era quello della banca dove lavorava, ha deciso di rinunciare alla sua carriera all'interno della banca a uno stipendio di 120.000 euro all'anno, e una carriera assicurata perché lui aveva avuto una promozione pochi mesi prima, per denunciare questa situazione. È piuttosto un idealista, Hervé Falciani. E infatti, a differenza degli altri lanciatori d'allerta, così vengono chiamati le gole profonde, in America si chiamano whistleblowers, esatto, sì, che sono spariti dopo aver consegnato o venduto i dati prelevati o rubati, Lui invece ha deciso di impegnarsi in questa mission a favore della trasparenza bancaria, contro l'opacità del sistema finanziario. Senti, nel brano di intervista che pubblichi oggi sul Sole 24 Ore parla Falciani del coinvolgimento di altre banche e di scandali non ancora finiti. L'impressione è che l'estensione possa essere enorme, Angelo. Sì, allora, tutto questo nasce da un'iniziativa che Hervé Falciani ha preso insieme al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, assieme al direttore del giornale francese Mediapart, Edouard Plenel, e il suo avvocato, che si chiama Bourdon, che è un personaggio molto conosciuto in Francia perché ha difeso le vittime delle stragi in Ruanda e in Burundi, le vittime delle guerre balcaniche. Insomma, è un attivista dei diritti politici ed è anche l'avvocato di Snowden in Francia. Hanno costituito un'associazione che si chiama PILA, che ha dato vita ad una piattaforma per aiutare i whistleblowers che vogliono denunciare i fatti di cui vengono a conoscenza. In questo modo potranno farlo in modo sicuro, senza subire e patire le conseguenze che Falciani e altri come lui hanno patito. È molto interessante questa piattaforma perché ha un'importanza molto grande. Ecco, questa piattaforma ha già cominciato a operare, ed è attraverso questa piattaforma che sono state depositate queste denunce che riguarderebbero anche altre banche. Senti Angelo, come mai hanno deciso di iniziare a far girare i nomi? Quantomeno della sua lista, della lista dei Falciani. Ecco, io questo non lo so, questo francamente non lo so. Io ho letto anch'io come tutti qual è stata la genesi di queste notizie. Sostanzialmente dei giornalisti di Le Monde hanno ottenuto i file da alcune fonti del Dipartimento Inchieste Fiscali del Ministero delle Finanze di Parigi. Quindi è praticamente il dipartimento che si è occupato dell'inchiesta dall'inizio, dal 2009. Hanno ottenuto questi file. E poiché si tratta di una massa enorme e poiché Le Monde fa parte del Consorzio Internazionale Giornalisti Investigativi, hanno deciso di coinvolgere tutto il consorzio. Questo è successo alcuni mesi fa, questi dati sono stati elaborati, sono stati suddivisi tra i giornalisti dei vari paesi e ogni giornale, in 45 paesi accade tutto questo, pubblicherà anche nei prossimi giorni, in Italia sarà l'Espresso a farlo già da venerdì, pubblicheranno i nomi. Quindi la genesi è questa. Altro non so dirti. Da questo punto di vista, questo dal punto di vista dei nomi. Ti chiederei di aiutarci anche, perché poi di cifre se ne sono fatte, ne sono girate, di mirabolanti, di più o meno corrette. Ci dai le dimensioni delle cifre di cui si parla, contenute all'interno di questa lista? Le dimensioni sono enormi, è difficile dare una valutazione perché in realtà di liste non esiste solo una, questa è solo una parte dei clienti dell'HSBC, sono soltanto i clienti i cui nomi sono stati consegnati alla giustizia francese e al fisco francese nel 2009 e poi la giustizia e il fisco francese li hanno a loro volta diffusi e dati alle procure di vari paesi e anche alla Guardia di Finanza in Italia, alla Procura di Torino. Questa è una prima parte. Esistono poi altri 121.000 nomi che non fanno parte di questa lista, e tra questi 121.000 ce ne sono parecchi italiani. E perché non fanno parte di questa lista? Perché la prima lista si riferiva soltanto ai clienti della filiale di Ginevra della HSBC. Ma la HSBC, essendo una delle più grandi banche del mondo, ha filiali anche a Monte Carlo, in Lussemburgo, a Lugano, Zurigo, insomma, ce ne sono tantissime. E quindi questa seconda lista comprende i clienti di queste altre filiali, soprattutto a Monte Carlo e a Lugano, chiaramente i clienti italiani potrebbero essere tantissimi. Potrebbero essere tantissimi, quindi 121.000 nomi complessivamente, dei quali in questo momento sono usciti evidentemente solo una parte, una piccola parte a questo punto. I nomi usciti sono solo una piccola parte, sì, sicuramente. Adesso i nomi italiani di questi compresi nella nuova lista dei 121.000 li ha la Procura di Torino. ma non sono ancora usciti. Ed è difficile per le autorità giudiziarie italiane utilizzare questo materiale? Ah beh, mi viene da ridere. Come dice Falciani nell'intervista, i magistrati non hanno occhi per piangere. Cosa è successo in Italia rispetto agli altri paesi? In Italia c'è la prescrizione dei reati che in altri paesi non esiste. Per cui se non arrivi in tempo non puoi punire nessuno. Ci sono stati i condoni fiscali, quelli di Tremonti, l'ultimo nel 2009-2010. Per cui la gran parte dei titolari dei conti dell'HSBC italiani hanno aderito allo scudo fiscale, quindi diciamo una sanatoria totale, hanno pagato il 5-6% d'imposta e si sono salvati. Quindi i magistrati di fronte a questo non possono fare altro che archiviare, e archiviazioni ne hanno fatte migliaia. Ci sono già migliaia di archiviazioni. Dall'idea che ti sei fatto, e naturalmente è molto difficile da capire, ci sono dei procedimenti invece che potranno andare avanti? Non so dirti perché con qualunque magistrato parli si mette le mani nei capelli, non può far altro che far questo, che constatare il fatto che le prescrizioni e i condoni impediscono un'indagine, insomma alzano bandiera bianca. Io ti ringrazio, grazie ad Angelo Mincuzzi. Vi ricordo il libro, perché è in libreria dal 18 di febbraio, quindi fra una settimana circa lo trovate, edito da Chiare Lettere. È un libro di Hervé Falciani insieme ad Angelo Mincuzzi, che è stato in studio con noi. Si intitola La cassaforte degli evasori, la lista Falciani in esclusiva mondiale, le verità dell'uomo che ha svelato appunto i nomi dei grandi evasori. Grazie ad Angelo Mincuzzi per essere stato con noi. Angelo, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Oggi procediamo per coppie. Prima abbiamo parlato di due vicende che riguardano la Svizzera, adesso di due vicende invece che fanno discutere in queste ore e che mettono in mezzo alcune riflessioni tanto sulla morale quanto sulla legalità. La prima è l'ok all'impianto in una donna di embrioni congelati 19 anni fa, anche se il marito è morto nel 2011. Com'è stato possibile, come sarà possibile tutto questo? In forza di una decisione del Tribunale Civile di Bologna, che ha accolto il ricorso di questa donna del Ferrarese che ha 50 anni. In primo grado il suo ricorso era stato rigettato. I giudici hanno ordinato al Policlinico Sant'Orsola, appunto di Bologna, di provvedere immediatamente all'impianto degli embrioni prodotti con la fecondazione assistita nel 96, prima della legge 40, e da allora crioconservati. Naturalmente stanno già scattando le prevedibili polemiche. In un primo commento Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, parla di alterazione della genitorialità. Ma dal punto di vista legale, com'è stato possibile tutto questo? Adriana Fracchi ha intervistato l'avvocato della donna, Boris Vitiello. Sentiamo cosa ha raccontato. Il centro che detiene questi embrioni, che si trova presso il Policlinico cittadino, riteneva che al caso di specie andasse applicata una norma della legge 40 che dice sostanzialmente che per procedere alla procreazione medicalmente assistita, in questo specifico caso all'impianto dell'embrione, occorresse la coppia di genitori entrambi viventi. E noi abbiamo sostenuto sempre che così non è, e di fatto poi il Tribunale Civile di Bologna ci ha dato ragione, o meglio, in un primo momento con la prima ordinanza ci ha dato torto, e in sede di reclamo, quando la prima ordinanza è stata impugnata, ci ha dato ragione, fondandosi su un elemento molto chiaro, ossia sulle linee guida della legge 40, che stabiliscono che la donna ha diritto a decidere sui propri embrioni crioconservati, perché in effetti sono tanti gli embrioni crioconservati prima della legge 40. E oggi con questa decisione quegli embrioni ricevono sicuramente una maggiore tutela. Con l'accoglimento di questo ricorso il Tribunale Civile di Bologna a questo punto che cosa autorizza e che cosa succederà quindi nell'immediato? Adesso chiaramente si dovrà avviare la procedura per l'accesso a questa tecnica. È chiaro che adesso l'aspetto giuridico si ferma e entra un aspetto personale e un aspetto medico soprattutto, perché comunque sono passati alcuni anni. Adesso la signora vedrà con i suoi medici cosa fare per procedere da questo punto di vista con quello che è meglio fare dal punto di vista medico, perché comunque, ripeto, sono passati diversi anni. È una sua decisione. Tra l'altro impiantare un embrione non significa poi che tutto vada a buon fine. Ripeto, l'aspetto adesso non è più giuridico, l'aspetto adesso è personale innanzitutto e poi medico. Pensa che questa decisione farà discutere molto? Questa innanzitutto è un'ordinanza fatta in via d'urgenza, ma che ha un contenuto molto forte e molto motivato, quindi è una pronuncia sicuramente completa. E è una pronuncia che sicuramente farà discutere. Fa discutere perché quantomeno mette in luce l'aspetto relativo ai tanti embrioni che sono stati congelati e che si trovano congelati e quindi forse si inserisce all'interno di tutta quella disciplina formatasi nel corso degli ultimi anni sulla procreazione medicalmente assistita, che è formata sì dalla legge 40 ma anche dalle tante pronunce dei giudici costituzionali ma anche dei giudici territoriali di merito che sono intervenuti per modificare e per migliorare questa disciplina. Altra questione della quale si sta dibattendo è quella partita da Roma. Che cosa è successo a Roma? Che si è tentato, ma per il momento c'è il prefetto Pecoraro che dice di no, di creare una sorta di zona nella quale la prostituzione fosse tollerata, facendo sì appunto che la prostituzione si concentrasse in quella zona. Questa sarebbe più o meno l'idea, è una zona dalle parti dell'Eur, a fronte di questa proposta rigettata dal prefetto Pecoraro, che cosa è successo? È successo che l'idea è scattata anche a Milano. Il capogruppo di SEL in consiglio comunale ha detto: beh, l'idea non è niente male, applichiamola anche da noi. Ne abbiamo parlato con Pier Francesco Maiorino, che è l'assessore alle politiche sociali del comune, il quale a quanto pare non è per nulla convinto. Credo che sia utilissimo, non lo dico retoricamente, riaprire il confronto su questi temi, perché è evidente che attualmente sia desolante la situazione sia sul piano legislativo che della capacità dei servizi pubblici e privati di aiutare le donne e le ragazze a liberarsi dalla prostituzione laddove sono inserite in catene proprio di schiavitù di tratta. Detto ciò, la proposta in sé non mi convince, perché credo che sia rischiosissima sul piano dei meccanismi di ghettizzazione che può produrre. Penso che sarebbe invece più opportuno a livello legislativo fare degli interventi in grado di riuscire, come dire, proprio a separare le due strade, perché da una parte ci sono persone che si prostituiscono per scelta e che probabilmente andrebbero fatte emergere in una condizione anche in grado di legalizzare quel tipo di attività. Dall'altra c'è un fenomeno enorme che si chiama schiavismo, tratta, eccetera. La localizzazione in un quartiere senza interventi di quel tipo produce solo l'effetto di spostare davanti agli occhi il problema per pezzi delle nostre città, magari realizza però, un quartiere ghetto e non interviene sul però, tema. Dopodiché però non lei voglio sa, neanche dire però lei sa, il problema è un altro, cioè bene discutono. Però lei sa, Maiorino, no, che per un intervento legislativo di questo tipo, che di fatto vorrebbe dire rivedere la legge Merlin in sostanza, questo paese si ragiona un po' sempre sull'anno del mai, e quindi il rischio è che sì, diciamo sì, si ragiona sulla legge Merlin, nel frattempo il degrado in alcune zone rimane, la tratta rimane, non c'è emersione, eccetera eccetera, non c'è nulla che i comuni possono fare, eh? Però il problema è che in questo caso, a differenza che in altri, in cui i comuni autonomamente possono, noi lo facciamo spessissimo, intervenire per disinnescare l'immobilismo del legislatore, in questo caso senza un intervento di carattere legislativo l'unica cosa che si può fare è fare sviluppare dei meccanismi di ordinanza, sindacale o simili, che alla fine non fanno altro che rendere tollerabile in alcuni punti della città l'attività della prostituzione e contrastarla in altri. Cosa succede a quel punto? Succede, ed è facile immaginarlo, succede che in alcuni quartieri il problema cessa di esistere, ma continua a rimanere negli altri, e il problema io credo non sia quello del quieto vivere dei nostri quartieri, il problema sia innanzitutto capire come aiutiamo le donne e le ragazze schiave a liberarsi dalla schiavitù. Questo da qui dovrebbe, secondo me, si potrebbe fare subito un'altra cosa senza passare dagli interventi legislativi, ad esempio mettere a disposizione risorse a livello nazionale per comuni e terzo settore per sviluppare più interventi di sostegno e aiuto. Sì, queste sono cose che nelle città, in alcune città si fanno, noi ad esempio le facciamo, però ci vuole una scelta di diverso genere. Poi là, i soldi non bastano mai. Un'ultima domanda brevemente, Maiorino. Però è sbagliata questa cosa, permettimi di contestarla, cioè i soldi non bastano mai, ma finanziare interventi di unità mobili che assistano le ragazze e le donne è un intervento molto più concreto che spostare da una piazza a un'altra la concentrazione della prostituzione. Senta, e molto brevemente, in 20 secondi, pensa che sia oltretutto illegale una soluzione di quel genere, come dice il prefetto di Roma Pecoraro? Ma questa è una valutazione che lascio ad altri. Certo, il prefetto Pecoraro interpreta a volte le leggi in un modo che io non condivido, come è accaduto nella vicenda dei matrimoni, quindi non è che lo uso proprio come oracolo per il diritto, però diciamo che tutto ciò dice che il Parlamento si deve dare una mossa, ecco, nel senso che anche le sue domande sacrosante sul piano di fatti in fretta non fanno altro che sollecitare il legislatore a uscire dal suo immobilismo, e ancora una volta non si fa altro che evidenziare il fatto che l'immobilismo del legislatore sui temi sociali produce risposte all'impazzata sui territori. Altra notizia di oggi, e notizia importante della giornata di oggi, è sicuramente dal lato dell'economia quella della produzione industriale italiana, che è andata bene, niente di straordinario, un più 0,4%, ma forse qualche segnale, se non di ripresa, di risveglio, si inizia a percepire. Secondo mese di crescita consecutiva, più 0,4% a dicembre, più 0,3% a novembre. La produzione industriale torna a regalare qualche timida soddisfazione. L'Istat sottolinea che si tratta di una serie positiva che non si realizzava da oltre un anno. Il dato tendenziale, poi, cioè anno su anno, con l'aumento dello 0,1%, mette fine a una serie di 5 contrazioni consecutive. L'intero 2014, però, va in archivio con un meno 0,8% rispetto all'anno precedente, il terzo anno di seguito con il segno meno. A dicembre a fare da traino sono stati i beni strumentali, l'energia e i beni intermedi, indietro invece i beni di consumo. Tra i comparti, quello dell'auto, una vera sorpresa, che cresce di oltre il 30% rispetto al 2013. Guardando oltre confine, ben altri numeri sfodera la Francia. Sempre a dicembre i francesi hanno ripreso a crescere, più 1,5% rispetto al mese precedente, un incremento parecchio superiore alle attese. Noi possiamo consolarci guardando la Germania, che la scorsa settimana ha pubblicato valori invariati per dicembre rispetto a novembre, più 0,1%, ricordando però che Berlino resta lontana. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, parliamo della giornata di oggi, una giornata nella quale si celebra il Safer Internet Day, la giornata per un internet più sicuro, così potremmo dire. È il 12esimo anno, il 12esimo anniversario, ed è un'iniziativa naturalmente dedicata prevalentemente ai giovani, agli adolescenti. Emergono dei dati interessanti: 5 ore a scuola e oltre 5 ore su internet. Un ragazzo su 6 passa il suo tempo in questo modo, in un mondo che, come sappiamo, è sempre più connesso, e se avete figli lo sapete benissimo. La percentuale di under 13 cui viene regalato il primo telefonino è triplicata in poco meno di un decennio. Il 97% dei teenager ne possiede uno. Katia Caramelli ha parlato di questi argomenti, oltre che dell'attività online della Polizia Postale, con Roberto Sgalla, che è direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato. Hanno una grande dimestichezza con l'uso dei sistemi informatici, di web, di internet, dei social network, che, come abbiamo sempre detto, è una grande opportunità, un'opportunità di crescita, di informazione. Quindi sicuramente non solo non va demonizzato, ma va apprezzato per quello che oggi questo mondo offre. È indubbio che, come tutti i mondi, hanno purtroppo, si direbbe, un po' un lato scuro, e quindi presentano dei pericoli. Ecco, i pericoli principali che negli ultimi tempi si sono evidenziati? Due aspetti. Uno, in cui i giovani, i ragazzi, sono vittime. E faccio riferimento all'adescamento, ai fenomeni di pedopornografia, l'abuso anche spesso nei confronti dei ragazzi, delle ragazze, degli adolescenti, dei minori, in cui effettivamente occorre una grande capacità, e credo che la Polizia Postale lo abbia dimostrato, di contrastare questi fenomeni. Poi c'è un altro versante, comportamenti illeciti, di cui i ragazzi spesso non hanno proprio il senso morale. Se noi chiediamo a un ragazzino: è reato rubare un quaderno, un astuccio in un negozio di cartoleria? Il bambino risponderebbe sì, è reato. Se noi chiediamo a un ragazzino, a un giovane, un adolescente: ma è reato pubblicare la foto della tua fidanzatina quando ti ha lasciato? Probabilmente, anzi sicuramente, risponde di no, che non è reato, che non è un fatto illecito. Questo fa dire appunto che i ragazzi non hanno la consapevolezza del male che si può fare attraverso forme di illecito e o di bullismo attraverso internet, attraverso i social network. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Come sempre vi ringrazio per averlo scaricato, e come sempre vi raccomando, se non l'avete fatto, di iscrivervi. Lo potete fare tramite anche solo un'estensione del vostro browser, e poi andando sul nostro sito internet www.radio24.it lo potete scaricare direttamente dal nostro sito www.radio24.it, ma per iscrivervi appunto dovete fare questa operazione, oppure naturalmente tramite il vostro smartphone con i programmi per il podcast. I contatti, come sempre, alla fine: effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia. Il ringraziamento va a Valeria Bernardi per la parte tecnica, e a tutti voi ancora una volta per l'ascolto. Una buona giornata.